Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici. Il popolo si divide in surface. A retrouver autour de vous son unité profonde. Pour la première fois, une révolution. Questa voce che sentite è quella di Charles de Gaulle, che in questo periodo torna d'attualità perché la Francia festeggia il cinquantenario della Quinta Repubblica, che venne appunto fondata dal generale. Questo che avete sentito erano alcuni passi di un discorso che gli tenne a gennaio del 1959, dopo che era stato eletto Presidente della Repubblica. Infatti il 28 settembre del 58 la Francia approvò la Costituzione che aveva disegnato De Gaulle. Il 23 e il 30 novembre si tennero le elezioni politiche che diedero la maggioranza assoluta ai gollisti, e il 21 dicembre il generale De Gaulle venne eletto Presidente della Repubblica. Quella Costituzione ha retto, come ha detto per esempio Jean-Louis Debré in un'intervista recente a Le Monde. Debré è un uomo politico francese, a sua volta figlio di colui che fu il primo ministro della Quinta Repubblica, nominato appunto da De Gaulle. Debré ha spiegato che con quella Costituzione il generale voleva un sistema che ponesse il presidente al di sopra delle contingenze politiche. E a De Gaulle è dedicato lo studio che adesso vi presento, di Riccardo Brizzi e Michele Marchi. Si intitola appunto Charles de Gaulle, è pubblicato dal Mulino, 252 pagine, 18,50 euro. Il volume ripercorre la carriera di questo grande protagonista del Novecento, dai primi passi come brillantissimo ufficiale dell'esercito francese fino al ruolo svolto durante l'occupazione nazista e poi alla fondazione della Quinta Repubblica, le cui istituzioni, conclude il libro, sono state in grado di sopravvivere al suo inventore, al punto che avrebbero addirittura accolto alla guida del paese François Mitterrand, uno dei più strenui oppositori del sistema istituzionale sorto dalla svolta del maggio 1958. Passiamo a un altro grande politico del Novecento, questo turco, Kemal Atatürk, al quale è dedicata la biografia di Fabio Grassi, è pubblicata da Salerno, 444 pagine, 29 euro. Questo è un libro più denso di quello dedicato a De Gaulle, ma ugualmente leggibile per capire chi era l'uomo che ha fatto la Turchia moderna, e anche per comprendere a quali convinzioni si fosse rifatto nel suo profondo sforzo di modernizzazione e di trasformazione del suo paese, uno sforzo che oggi è un'eredità importante con la quale la Turchia continua a fare i conti, anche con qualche dubbio e con qualche tentativo di tornare indietro. Ma sentiamo su questo libro l'autore. Buongiorno a Fabio Grassi. Buongiorno e buona domenica a tutti voi. Professor Grassi, questo libro su Atatürk spiega il personaggio, naturalmente parla a lungo del tentativo, dello sforzo di laicizzazione e modernizzazione che Atatürk fece del suo paese, della Turchia. Che paese trovò Atatürk quando avviò questo suo processo, sia dal punto di vista politico che anche dal punto di vista sociale e culturale? Trovò un paese in condizioni terribili innanzitutto, in condizioni materiali veramente molto molto pesanti, e trovò un paese profondamente cambiato rispetto anche a solo un decennio prima. Trovò un paese come mai nella sua storia precedente aveva perso di complessità etnica e religiosa, in quanto invece si era profondamente musulmanizzato, e quindi un paese che poteva essere un nuovo laboratorio per una nuova esperienza. Questa esperienza fu a 360 gradi. Atatürk addirittura mise mano non solo all'alfabeto, ma anche alla scrittura, meglio, ma anche proprio alla lingua turca, perché voleva modificare radicalmente qualunque aspetto della convivenza sociale nel suo paese. Sì, la rivoluzione dell'alfabeto è relativamente nota. Il passaggio dall'alfabeto in caratteri arabi all'alfabeto in caratteri latini, operato molto rapidamente con la massima determinazione nel 1928. Un po' meno nota è la rivoluzione lessicale, la riesumazione e sotto molti aspetti la reinvenzione di una lingua turca il più possibile liberata dagli apporti arabi e persiani. Il suo libro si sofferma su quella che è stata l'eredità di Ataturk, un'eredità di cui si discute molto, soprattutto adesso alla luce della doppia sfida dell'integralismo islamico da un lato e del tentativo, della richiesta della Turchia di entrare a far parte dell'Unione Europea. Ecco, alla luce di queste due sfide, come ritiene che la Turchia di oggi stia rispondendo all'eredità di Ataturk? E poi Ataturk ha potuto fare la sua rivoluzione anche con una forte spinta autoritaria. Ecco, ha prevalso questa componente autoritaria nella Turchia di oggi o no, a suo parere? Questa componente autoritaria naturalmente è stata molto forte e presente nella storia della Turchia repubblicana. È abbastanza comprensibile che ci sia stata questa impostazione autoritaria rispetto agli obiettivi e alle condizioni date. Quello che va detto è che non si può delineare una unica posizione presente in Turchia rispetto all'eredità di Ataturk. La necessità di compiere un grande cambiamento sociale, culturale e politico ha comportato la necessità di una grande religione civile, incentrata sul culto di Ataturk, soprattutto dopo la sua morte. Questo non c'è dubbio. E rispetto a questa esperienza ci sono varie posizioni che possono essere un po' sinteticamente riassunte in tre. Una certamente è quella di forze politiche e culturali che rivendicano l'eredità, la tradizione della religione islamica in modo più o meno apertamente conflittuale, più o meno direttamente conflittuale invece con l'ideologia kemalista. C'è una parte del mondo politico, anche culturale, sociale, turco che rimane fortemente agganciato, che si identifica ancora profondamente con la vicenda storica dei primi decenni della Repubblica, con la figura di Mustafa Kemal. C'è una parte del mondo politico, culturale e turco che senza dissentire con gli obiettivi di fondo, insomma, della rivoluzione occidentalista, laica di Ataturk, però cerca anche di riorganizzare un nuovo rapporto tra Stato e società e appunto di eliminare gli aspetti autoritari dello Stato. Ecco, questo in estrema sintesi possiamo dire che sia il quadro attuale. Queste ultime forze di cui ho parlato non sono molto consistenti numericamente, ma hanno un notevole prestigio e mi sembrano abbastanza in corrispondenza con il desiderio del mondo economico, per esempio, appunto di una evoluzione di centro, un'evoluzione moderata del sistema, del regime, senza nuove drammatiche contrapposizioni. Molto brevemente, secondo lei è possibile pensare a un qualche altro Ataturk oggi in qualche altro paese di tradizione musulmana islamica? In questo momento no, perché in questo momento mi sembra che la storia stia girando in un'altra direzione. Ciò nonostante, il problema che si è posto e che ha posto anche duramente Ataturk alla sua società è quanto una società, beandosi anche delle proprie tradizioni ancestrali, della propria cultura, della propria identità, però poi possa reggere efficacemente nella competizione mondiale senza acquisire degli strumenti concettuali che oggettivamente sono nati nella civiltà occidentale. Poi Ataturk evitava accuratamente di fare un discorso geografico, poneva sempre un discorso onnicomprensivo di civiltà, ma è evidente che la cultura, la mentalità che desiderava fosse acquisita era quella occidentale. Uno dei miliardi di aneddoti di Ataturk, quando fa venire in Turchia il grande pianista Wilhelm Kempf e dice: io avrò vinto se questa musica sarà la musica apprezzata dal mio popolo. Forse non cito letteralmente, ma il concetto era questo, quindi l'idea non di una semplice modernizzazione, ma di una profonda occidentalizzazione. Bene, grazie a Fabio Grassi, autore di Ataturk. Grazie a voi. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Il 4 novembre si celebrerà la giornata delle forze armate, che quest'anno tra l'altro ricorda il 90° della fine della prima guerra mondiale, guerra nella quale uno dei corpi che si distinse di più fu quello degli alpini. E allora ricordo il libro di Marco Mondini, che è uno storico a Padova, intitolato appunto Alpini, parole e immagini di un mito guerriero, e pubblicato dalla Terza, 256 pagine, 16 euro. Gli alpini sono certamente uno dei corpi più amati dagli italiani, forse perché ne riflettono molte caratteristiche. Il libro definisce gli alpini coraggiosi fino all'incoscienza, insofferenti della disciplina e dei gradi, ma pronti a seguire il proprio comandante fino alla morte, bonari e scanzonati. Perché il libro parla di mito? Perché gli alpini rappresentano, secondo l'autore, l'espressione di un collegamento, forse anche di una simbiosi, tra l'uomo e la montagna, che si manifesta poi in una tempra eccezionale di cui danno prova questi uomini. E Mondini ripercorre nel suo libro, più che la storia, la costruzione appunto di questo mito attraverso tre momenti particolarmente significativi: la prima guerra mondiale, appunto il fascismo, e la seconda guerra mondiale. Ritroviamo nel libro degli eroi come Cesare Battisti, ma anche letterati che hanno alimentato o contribuito a costruire questo mito, da Piero Jaillet a Paolo Monelli, Mario Rigoni Stern, Nuto Revelli e Giulio Bedeschi, l'autore di 100.000 gavette di ghiaccio, il libro che, dopo essere stato rifiutato da 17 editori, ha venduto, grazie a Mursia, più di 3 milioni di copie. Proprio a Cesare Battisti è dedicata l'ampia biografia di Stefano Biguzzi, pubblicata da UTET, 728 pagine, 35 euro. Battisti riconosce l'autore non è certo tra gli italiani più popolari e fu anche vittima di una forte strumentalizzazione da parte del fascismo, così che oggi egli appare relegato, scrive, in un polveroso pantheon di glorie nazionali ridotte a sopravvivere nel bronzo di qualche solitario monumento. In realtà Cesare Battisti è una figura importante nella storia del nostro paese perché è espressione di una cultura democratica internazionalista che seppe fondersi con un sentimento, scrive sempre Biguzzi, di appartenenza nazionale. Battisti infatti fu anche uno dei padri del socialismo trentino e fu poi deputato a Vienna. La sua biografia colma dunque una lacuna e offre anche un'opportunità per rileggere la prima guerra mondiale, le vicende che segnarono il rapporto tra Trentino, Austria e Italia, e soprattutto per riaffermare la forza della tradizione socialista e democratica di cui Cesare Battisti fu un grande rappresentante. Ma sentiamo che cosa legge un militare di oggi. Chi legge cosa? Risponde il generale di divisione Claudio Graziano, che è il comandante dell'UNIFIL, la forza di interposizione in Libano delle Nazioni Unite. Ma in questo particolare periodo, anche in funzione del mio incarico di capomissione e delle mie responsabilità, e anche perché desta curiosità, comunque sto leggendo libri che riguardano un pochino il Medio Oriente, per esempio Cronache Medio Orientali di un famoso scrittore che si chiama Robert Fisk, lo scrittore britannico che è stato uno dei pochi che ha intervistato Bin Laden, per esempio. Per esempio ho appena finito un libro che si chiama 13 soldati, da cui hanno tratto un film che si chiama Beaufort Castle. 13 soldati sarebbe la storia di questi 13 soldati che sono gli ultimi nell'occupazione israeliana prima della ritirata del 2000 del Libano. Quindi lei non legge solo libri di evasione? Diciamo così che abbino la vita che faccio, che giustamente è una vita militare, di responsabilità ma anche diplomatica, con gli ambienti in cui vivo. Per esempio quando ero in Afghanistan che leggevo il Cacciatore di Aquiloni, adesso poi ho letto anche Mille splendidi soldi che era a seguito, perché quasi quasi mi sembra di essere più interessato e più compreso. Se poi mi devo distrarre completamente, leggo gialli tipo John le Carré. Mi piace John le Carré, l'ultimo, Il canto della missione, però in generale ho letto tutti quelli di John le Carré. Mi interessano, sono intriganti, di nuovo destano il mio interesse immediato, ecco. Non mi dispiace i libri di storia militare assolutamente, le grandi figure dei militari, leggo anche volentieri storia militare, però diciamo più saggistica, cronaca di vita contemporanea, di avvenimenti. Oltre che leggere, lei ha anche scritto, generale? Non tanta roba, adesso quando io, dopo la mia esperienza in Mozambico, insieme a un giornalista di Rai 3 che si chiama Gianfranco Bianco, che è un mio caro amico, abbiamo scritto un libro che si chiama Soldati Blu, che era sull'esperienza mozambicana. Poi ho scritto qualche altro libro, ma su commissione, diciamo così, della difesa all'epoca, perché insomma mi piaceva scrivere, mi piace ancora scrivere. Quando smetterò di essere impegnato tanto a lungo, magari ci tornerò a scrivere. Adesso sono più impegnato a leggere che purtroppo a scrivere, non c'è tanto tempo. Allora riassumiamo, il generale Graziano legge di Robert Fisk, Cronache Mediorientali, il grande inviato di guerra inglese, racconta 100 anni di invasione, tragedie e tradimenti, è pubblicato dal Saggiatore, 1180 pagine, 35 euro. Poi Ron Lesham, 13 soldati, è pubblicato da Rizzoli, 376 pagine, 17 euro. Qui ho sbagliato. Poi Ron Lesham, 13 soldati, è pubblicato da Rizzoli, 376 pagine, 17 euro. Poi due famosi libri di Khaled Hosseini, I cacciatori di aquiloni e Mille splendidi soli, pubblicati entrambi da PM, 394 pagine il primo, 448 il secondo, 17,50 euro il primo, 23 euro il secondo. E infine di John Le Carré, Canto di una missione, pubblicato in edizione economica da Mondadori quest'anno, 350 pagine, 9 euro. Dagli eroi passiamo alle eroine. Ce n'è una delle più celebri che in questo momento è protagonista a Milano di una mostra, la Giuditta di Sandro Botticelli, che è esposta fino al 14 dicembre al Museo Diocesano all'interno del ciclo Un capolavoro per Milano. Un solo quadro offerto all'ammirazione dei milanesi, il quadro normalmente sta agli Uffizi, un capolavoro di Botticelli che ci viene così presentato da Marco Carminati. Buongiorno Marco. Ciao Salvatore. Sì, fino al 14 di dicembre a Milano al Museo Diocesano si trova ospitata una piccola straordinaria tavoletta di Botticelli che proviene dagli Uffizi e che illustra il mito, la storia di Giuditta. Questa tavoletta è alta solo 30 centimetri e larga 20, quindi praticamente un foglio di un libro, ed era anticamente montata con un'altra tavoletta che si trova ancora agli Uffizi, dove c'era un'altra storia di Giuditta e Oloferne. Queste due tavolette erano messe in una cornice, questa cornice era unita da una cerniera, quindi era sostanzialmente un librettino che veniva portato evidentemente in giro dai collezionisti più raffinati, che ogni tanto aprivano questo meraviglioso scrigno per ammirare la pittura di Botticelli, che qui è molto giovane, siamo intorno al 1470, Botticelli è appena diventato un pittore professionista, e la storia in particolare che si trova nella tavoletta di destra, che è quella esposta a Milano, racconta il momento in cui questa eroina di Israele riesce ad entrare nell'accampamento nemico degli Assiri, che stavano stringendo d'assedio la sua città Betulia, riesce, vestendosi in modo molto appariscente, piena di gioielli, molto ben acconciata, a far innamorare il generale Oloferne e a farsi invitare a una cena. Durante questa cena Oloferne beve più del necessario e la nostra Giuditta aspetta il momento della massima ebbrezza per colpirlo con la spada e tagliargli la testa. Quindi è un personaggio abbastanza deciso, riesce velocemente a guadagnare l'uscita dall'accampamento. È proprio il momento che il quadro fissa, cioè c'è Giuditta che sta scappando, sul fondo si vede l'accampamento, dietro c'è la sua servetta che l'aiuta a portare sulla testa un canestro, dentro il canestro c'è il macabro trofeo della testa di Oloferne. E dall'altra parte l'altra tavoletta, che naturalmente non è venuta a Milano, racconta lo sgomento degli Assiri quando si accorgono che nella tenda di Oloferne non sta dormendo il loro generale, ma quello che resta del corpo, cioè solamente il corpo senza la testa. E questo spavento porterà naturalmente al ribaltamento delle sorti della guerra. Vinceranno gli ebrei contro gli assiri. Giuditta è anche la protagonista del libro di Mario Brelich, intitolato appunto Giuditta. L'autore è uno scrittore di origine ungherese che morì vicino Roma nel 1982, il libro è pubblicato da Adelphi, 200 pagine, 18 euro. Brelich era specializzato appunto in libri che rivisitano personaggi e figure importanti delle sacre scritture, e questo è certamente uno dei titoli più interessanti, alle prese con una figura, abbiamo visto, celeberrima, di cui lo scrittore qua scava in profondità il carattere e la volontà che la portarono a quel gesto, raccontando in un libro molto breve peraltro della Bibbia, e immortalato poi in centinaia di opere, di cui quella di Botticelli è una delle più famose. Brelich non si discosta per nulla dal testo biblico, ma cerca di leggervi dentro, o meglio dietro, non negando di far ricorso anche alla fantasia, che però lui vuole sempre tuttavia collegare ad elementi che emergano dalle sacre scritture. E Giuditta così viene presentata come una figura dominata dal tabù ancestrale della tribù alla quale appartiene e dal complesso di un matrimonio difficile. nonché dal desiderio di superare questa eredità con un gesto esemplare per la salvezza di Israele, affidandosi, scrive Vrelic, esclusivamente alla propria bellezza. E ne viene fuori un libro che è quasi un romanzo, dalla scrittura brillante a tratti ironica, con ampie concessioni alla psicoanalisi, che fanno dell'eroina di Betulia una donna e un eroe dei nostri giorni. Un'eroina particolare è Maria Luisa Gangemi, il commissario catanese, protagonista di un nuovo romanzo di Silvana Laspina, La bambina pericolosa, pubblicato da Mondadori, 336 pagine, 18 euro. Questo è il secondo appuntamento con le inchieste di questa malinconica ma agguerrita donna dell'ordine, alle prese con inchieste sempre assai delicate, nelle quali la sua città, Catania, svolge un ruolo insostituibile di protagonista. E a questo punto il confettino. Abbiamo parlato di soldati, eroi ed eroine. Come contraltare, vi propongo Pappa Molla di Stephanie Blake, tradotto da Federica Rocca, 12,50 euro, Baba Libri. Questa è una bella storia sulla scoperta del fratellino, adatta per i piccoli o le piccole primogenite turbati dall'arrivo di un ancor più piccolo rompiscatole. Prima di salutarci vi voglio segnalare che a Milano domenica prossima si svolge il terzo appuntamento di Vecchi Libri in Piazza Diaz, il mercato di libri rari, vecchi e antichi, dalle 9 alle 17, organizzato da Mare Magnum Librorum, che è diventato un appuntamento molto importante per tutti gli appassionati di libri vecchi e antichi. E con questo ringrazio Laura Marchesi, Daniele Casagrandi in redazione, Peter Bescapè in regia. Passo la linea a Laura Bettini per Respiro. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.